Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24, ben ritrovati Ivana Di Martino. Ciao, buona domenica a tutti. Allora, dopo un periodo diciamo di salite metaforiche anche belle intense, oggi ci facciamo accompagnare da uno specialista invece di salite positive, di quelle divertenti, almeno per lui che con le salite con pendenza a doppia cifra ci fa colazione. Davide Magnini, benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti, grazie di avermi ospitato. Come stai, Davide? Bene, bene, sono a casa a Vermiglio in Val di Sole e va tutto bene al momento. Davide, tu di far fatica in montagna non sei mai stanco, diciamo, perché durante l'inverno sei un campione di sci alpinismo e appena si scioglie la neve baratti, diciamo, gli sci con un paio di scarpe da trail e inizi con la corsa in montagna, con il trail appunto, con lo sky running. Raccontaci un po', insomma, la tua stagione, tipo, a parte a quella attuale, diciamo, che purtroppo sappiamo che è ferma. Sì, io faccio parte della squadra del Centro Sportivo Esercito e nella stagione invernale di sci alpinismo mi dedico quindi alle gare con la nazionale italiana, seguendo il circuito di Coppa del Mondo, campionati mondiali, e invece poi d'estate faccio parte del team Salomon International e seguo le gare di trail running e corse in montagna che si disputano intorno in tutta Europa. Quindi ti stai allenando per che cosa adesso, in questo momento? Ma in questa stagione anomala, diciamo che ho cominciato a preparare un po' sempre la corsa in montagna per le gare che sono state posticipate al mese di settembre-ottobre e che ho in programma di gareggiare. Però prima ho qualche progetto personale, diciamo, che voglio portare a termine, visto che appunto c'è una mancanza di gare in questi mesi fino a settembre e di solito in una stagione normale invece il calendario è molto più fitto e quindi non si riesce mai a portare a termine i progetti più personali. Quest'anno proverò a tentare qualcosa di diverso dal solito. Ma nel frattempo, diciamo, la corsa in montagna cerca un po' di ripartire, no? Finalmente c'è un minimo di calendario. È un bel segnale, almeno questo. Sì. Per quanto riguarda l'Italia, diciamo. Sì, sicuramente è un bel segnale. Appunto, tante gare sono state annullate, però tante sono state posticipate ai mesi settembre-ottobre, che saranno molto fitti. È un segnale positivo e spero che venga accolto dai molti appassionati di questa disciplina. E penso che con le giuste precauzioni e accorgimenti si può tornare a praticare sport come facevamo prima, perché ne abbiamo bisogno. Lo sport ci regala tante emozioni e ci dà soddisfazione personale, quindi in questo periodo tutti ne hanno bisogno, penso. Chissà come ti è mancata comunque la montagna. Tu eri a casa, no, durante il lockdown, quindi guardavi fuori e non potevi uscire. Sì, diciamo che durante il lockdown, in particolare nel mio paese di Vermiglio, che ha avuto un'alta percentuale di contagi, ovviamente le restrizioni erano molto severe e io ho cercato di dare l'esempio di rimanere e allenarmi in casa su tapirulano, sui rulli, in tutto il mese di marzo-aprile, fino a quando appunto eravamo obbligati a stare chiusi in casa. E in quei mesi la parte più dura da affrontare è stata quella psicologica, perché appunto era una giornata una più bella dell'altra, con condizioni a livello di neve in quota sopra le montagne di casa veramente perfette per lo sci alpinismo, che nella stagione primaverile di solito si praticano le ascese, quelle più alpinistiche, più belle. Mi è mancata molto la montagna e mi sono mancate quelle uscite, diciamo. Hai studiato in questo periodo? Tu studi ingegneria, se non ricordo male. Sì, nei primi mesi del 2020 ho terminato la tesi e mi sono laureato proprio durante il lockdown, il 16 marzo, in ingegneria dei materiali presso l'Ateneo di Trento. E niente, poi ho cominciato a studiare qualche corso già della magistrale per portarmi avanti. E penso che proverò a dare due esami nel mese di luglio per vedere se studiando da casa riesco comunque a portare a termine gli esami. Cosa hai scelto come specialistica, come magistrale? Si chiama Materials and Production and Engineering, cioè il proseguimento tutto in inglese del corso che ho fatto durante la triennale. E all'interno di questa ci sono vari curriculum specifici, però mi interesserebbe verso nuovi materiali riciclabili o proprio il ciclo dei materiali come plastiche e altro. Che bellissimo, interessante, molto. Grazie. E come riesci a conciliare il tutto, studio e tutto questo sport che fai, tra l'altro? Diciamo che bisogna essere bene organizzati, perché ovviamente sia allenarsi per uno sport di endurance richiede tanto tempo, tanto impegno e tante energie soprattutto, e dall'altro lato anche studiare per un corso di ingegneria hai bisogno di essere, diciamo, concentrato e la parte mentale molto libera, quindi cerco di alternare un po' le due attività, e quando lavora la testa riposa il fisico e viceversa, e bisogna essere sicuramente molto organizzati e saper dare il giusto peso a ogni lavoro per riuscire a essere efficienti in entrambi, diciamo. Studio e sport quindi vanno d'accordo, sci, alpinismo e corsa invece vanno d'accordo? Sì, a livello muscolare questi due sport, devo dire che la corsa in montagna fornisce una buona preparazione per lo sci alpinismo a livello muscolare, ma non viceversa. Lo sci alpinismo, col fatto che hai uno scarpone rigido in cui la pianta del piede non si piega, non flette, si va ad usare molto meno la catena posteriore dei polpacci e della gamba, e quindi quando si ricomincia dopo 5 mesi di solo sci alpinismo l'estate è dura i primi tempi. Dall'altro lato però lo sci alpinismo fornisce una buona base di resistenza e preparazione a livello organico, perché comunque gareggi tutto l'inverno con il peso dell'attrezzatura e a quote anche elevate, quindi arrivi bello preparato. Perché mi viene un esempio, quello della norvegese Therese Jørgen, che lei fa sci di fondo, però, no? Che sì, dallo sci di fondo ormai è vicina alla qualificazione olimpica in atletica leggera, ha recentemente corso un 10.000 in 31.40 praticamente. Sì, il tempo per cui sono discipline. Il tempo di Therese è impressionante, lo aveva già dimostrato in passato quando si era qualificata per gli europei, e adesso ancora di più. Lo sci di fondo è un po' diverso ovviamente come gesto rispetto allo sci alpinismo, perché è una disciplina ancora più veloce, più esplosiva, un gesto più fluido e dinamico, col fatto che la scarpa è morbida, appunto anche il gesto è un po' più naturale rispetto a quello dello sci alpinismo, e quindi penso che con la corsa è un po' più vicino a livello di movimento e di muscola. Ma Davide, quando è che hai incominciato a correre? Cioè, qual è la tua storia con la corsa? Quando hai iniziato? Io ho iniziato all'età di 13-14 anni, quando dopo la prima stagione di sci alpinismo, in cui sono entrato in nazionale giovanile, nella nazionale italiana giovanile, per seguire le gare di Coppa del Mondo e i campionati mondiali. Durante l'estate successivo a quella stagione, per tenermi allenato, già andavo in montagna a camminare con i bastoni, mi piacevano le salite tirate con i bastoncini nel bosco, e ho cominciato anche a correre e allenarmi un po' di più. Prima da solo, poi mi sono unito a un corso di atletica che si teneva qua in Val di Sole da Sara Berti, che è diventata poi la mia allenatrice, e insieme alla quale poi ho deciso di dedicarmi alla corsa in montagna classica FIDAL, e in questo campo sono riuscito ad ottenere dei buoni risultati nelle categorie giovanili. Ho vinto vari titoli italiani fino al titolo mondiale Under 18 ad Arco. Infatti l'ultima volta che parlavamo di corse in montagna parlavamo della stagione scorsa, 2019, no? E a pensarci ora sembra un'altra vita. Eh sì. Parlavamo del Golden Trail World Series, un circuito di 6 gare. Che circuito è quello? Sei arrivato secondo dietro, diciamo, al campione indiscusso della corsa sui sentieri Kilian Jornet. Esattamente, l'anno scorso ho preso parte a questo circuito organizzato da Salomon, che racchiude, diciamo, le gare più famose, storiche e più dure anche del trail running. E quali sono? C'è Zgama nei Paesi Baschi, che è la prima di solito, poi Marathon du Mont Blanc a Chamonix. Okay. Quella che hai vinto? Dolomites Run a Canazei, ex Dolomiti Sky Race, e dopodiché si passa alla più prestigiosa, la più famosa al mondo, la Sierre d'Inal in Svizzera. Infatti ne parlavamo anche con Francesco Puppi tempo fa. Sierre d'Inal anche per lui è la gara simbolo. Cos'ha di particolare quella gara? È una gara particolare sia a livello di percorso, perché è una gran salita molto tosta iniziale e poi c'è più di metà gara in cui bisogna veramente correre forte a ritmi elevati, perché le pendenze non sono toste, è molto scorrevole il percorso, bisogna correre fortissimo e si è sempre attorno ai 2000 metri. In una valle bellissima con di fronte tutti i 4000 delle Alpi Svizzere, e poi c'è una discesa finale di 1000 metri. Mamma molto mia! Grande, comunque bisogna avere delle energie da spendere in quell'ultima parte. E in più in questa gara mitica a cui prendono parte più di 5000 persone, si incontrano sia gli atleti che vengono dal mondo trail running puro che quelli che corrono su strada, la corsa in montagna classica, e quindi il livello è sempre il più alto in assoluto tutti gli anni. E quindi è questa la tua gara preferita? No, la mia preferita direi che è la Dolomites Run, un po' perché è a casa in Trentino, a Canazei, sulle Dolomiti, e un po' anche per il format, è un po' più corta, sono 24 km, una grande salita e un'unica discesa dal centro di Canazei fino alla cima del Pisboé, quindi sono 1850 metri di dislivello in un colpo solo, sia in salita che in discesa, e in più nella parte alta è molto tecnica a livello di sentiero, e a me piace molto. Ci siamo fermati a Sierre d'Inal prima per il Golden Trail World Series. Mancavano due gare, se non sbaglio. Quelle sono? Mancavano altre due gare, una è Pikes Peak Marathon in America, e una marathon di 42 km dove si sale e scende dallo stesso percorso, si arriva a più di 4000 metri di altitudine. E l'altra è molto tecnica in Scozia, Ring of Steel. E invece cosa ci vuole per battere Kilian? Ci vuole esattamente non lo so, perché non ci sono ancora. Se no e ho dato battaglia tante volte, è stato bello riuscire ad affiancarlo e tenergli testa per qualche tratto di gara. Ma senti un po' il fiato sul collo, però sentirle che è dietro lì, dici boh, come farò a tenerlo dietro. Kilian è veramente un fuori classe in ogni disciplina e sport in cui si cimenta, e quindi non so neanche io, bisogna migliorare tanto, essere in forma, avere la giornata giusta, e ovviamente ci vuole sempre anche un pizzico di fortuna. Sì. Ma comunque sei giovane, per cui c'è tempo. Infatti. Abbiamo accennato un attimo alle Olimpiadi prima, quando lo sci alpinismo diventerà disciplina olimpica? Attualmente lo sci alpinismo è già riconosciuto dal CIO come disciplina olimpica, ma non è ancora inserito nel calendario gare olimpiche. Quindi spetta all'organizzatore di ogni edizione dei giochi decidere quali nuovi sport inserire nel programma. E nel 2022 a Pechino è già deciso che non ci sarà. E ovviamente da parte della nostra comunità di sci alpinisti tutte le speranze sono rivolte a Cortina Milano 2026, un po' perché siamo in Italia e in Italia lo sci alpinismo è molto popolare, soprattutto negli ultimi anni. Abbiamo una nazione fortissima, gruppi sportivi come il Centro Sportivo Esercito che ci credono fortemente, che hanno atleti, i più forti atleti a livello internazionale, e quindi penso sia la volta buona e ci spero tanto. Un'Olimpiade in casa sarebbe un grande sogno. Quanti anni avrai nel 2026? Io avrò 29 anni. Sempre quindi, pochi, insomma. Quindi ci vai insomma... Davide, siamo in chiusura, veniamo un po' ad oggi. Mancanza di gare, cosa ti sei inventato recentemente? Recentemente ho provato appunto la salita su strada di corsa della Rest Elvio Mapei, questa gara che si disputa ogni anno dalle terme di Bormio, salendo lungo i tornanti del Passo Stelvio fino allo svalicamento. E niente, sono sempre stato legato un po' alle ascese sui passi alpini, un po' anche vedendo le imprese del ciclismo che passavano vicino a casa, e quindi in mancanza di gare avevo voglia di tornare a provare quella sensazione di pura fatica, di pura performance quando ti spingi al limite delle tue possibilità. E quale posto migliore se non la mitica e la leggendaria salita dello Stelvio. Sono 21 chilometri, giusto? Sì, sono 21 chilometri con 1533 metri di dislivello e 41 tornanti. Il record appartiene a Giuliano Battocletti, al tempo campione di mezza maratona, e aveva andava forte, diciamo, il cronometro su 1:31 minuti e 21 secondi nel 2005. Sapevo che il suo era un gran tempo e sarebbe stata dura, però ho comunque voluto provare a sfidare me stesso il tempo su questo tipo di terreno. E com'è andata? Bene, ma diciamo non fino in fondo. Ho stoppato l'orologio a 1:32:38, che corrisponde alla seconda miglior prestazione di sempre su questa salita, ma appunto non è stato abbastanza per fare il record. 1:32 nella mezza maratona, c'è chi fermerebbe per farlo in piano, diciamo, tra gli ascoltatori, immagino. Anche. Ci riproverai? Sì, penso che un conto in sospeso ce l'ho ancora con questa salita, anche perché fino a tre quarti di percorso stavo andando bene, ero salito molto forte, il ritmo era quello giusto per avvicinarmi e provare a battere il record di Giuliano, e poi nella parte alta un po' ho trovato del vento freddo contrario che mi ha fatto ridurre di molto il ritmo, ho speso tante energie, ho avuto anche qualche problema a livello di fegato per quando ho cominciato a respirare l'aria fredda in quota, e quindi nella parte finale ero senza energie e ho perso tanto. Voglio comunque riprovarci, adesso non so quando esattamente, perché ho bisogno di ricaricare un po' la motivazione e la determinazione per affrontare i 41 tornanti dello Stelvio. E conoscendomi per come sono fatto è meglio che non programmo niente, e quando me lo sentirò ci proverò. Grazie mille Davide Magnini, a presto. Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 24. E anche per oggi è tutto, noi ci risentiamo domenica prossima sempre alle 6:30, alle 16:15, poi quando volete ci trovate in podcast. Buona giornata. Buona domenica a tutti. Personal Best, tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.